390. Sformato di spinaci. Lessate gli spinaci in pochissima acqua o soltanto con quella che sgoronda dai medesimi quando li levate dall'acqua fresca dove erano in molle. Passateli dall'ostaccio e, regolandovi sulla quantità, condizionateli con sale, pepe, cannella in polvere, alcune cucchiaiate di balsamella numero 137, burro, uova, parmigiano, un pugnello di uva secca o zibibbo ai quali siano si tolto i semi oppure uva passolina. Mescolate per bene e versate il composto in una forma liscia, bucata nel mezzo, cuocendolo a bagnomaria. Sformatelo quando è tuttora caldo e mandatelo in tavola riempito di un umido delicato di rigaglie di pollo oppure di animelle o di vitella di latte o anche di tutte queste cose insieme, frammiste a pezzetti di funghi secchi.